vostro orecchio. Radio Team di disinformazione musicale. Ciao a tutti, buonasera da Lecce, Nardò, prima puntata del terzo orecchio. Prima puntata perché quella precedente in realtà più di due mesi fa si può considerare come una puntata di prova, abbiamo detto una puntata pilota. Quindi, nuovo orario ogni martedì dalle 21 sulle frequenze di Radio Flow. Ripetiamo un pochino cosa significa il perché di questo nome, il terzo orecchio, perché oltre alle due orecchie canoniche, il terzo orecchio è un orecchio puntato, diciamo, sulla rete, sui blog, su... C'è gente che mi fa ridere in studio, sta mangiando dei rustici. Non è professionale, ma qui c'è gente intorno a me che mangia e mi fa smorfie. Dunque, dicevamo, il terzo orecchio è un orecchio puntato sulla rete, quindi cercheremo di dare un po' di informazioni su quello che succede, che si sente in giro per internet, gruppi, fondamentalmente informazioni musicali, ma non solo. Ma intanto già parliamo da troppo tempo, quindi andiamo con un po' di musica. I'm canzoni. Radio Flow, libera radiofonia tra amici. Rieccoci in studio, questi erano gli specials. Dunque, iniziamo a parlare un po' di quello in cui in fondo si interessa il programma, cioè di notizie. Senza dubbio la notizia più importante della settimana, che sicuramente nessuno di voi non avrà sentito, è quella dello scioglimento degli Oasis. Band che, ricordiamo, ha scritto una canzone che si chiama Live Forever. Non è proprio letteraria come cosa, perché gli Oasis non sono più Live Forever. Dunque, questa cosa sicuramente la saprete tutti: si sono sciolti gli Oasis, Liam ha litigato col fratellino Noel, ha sfasciato una chitarra nel backstage. Ma quello che era effettivamente divertente vedere su internet erano i commenti delle persone che dovevano andare al concerto e che scrivevano sulla pagina di Facebook di Indipendente Concerti, che era l'organizzatore della serata, del festival, commenti di tutti i colori. Soprattutto erano bellissime le reazioni quando si è saputo che al posto degli Oasis ci sarebbero stati i Deep Purple. Insomma, diciamo, dei giovanotti. A quanto pare nell'ultimo tour, dopo il concerto, il collegavano all'ossigeno, ma insomma, dettagli. Era divertente anche sapere che il biglietto costava ben 46 euro. C'era gente che aveva anche prenotato aerei, magari si era anche licenziata dal lavoro, ma insomma, c'è gente che in questo momento mi starà odiando. Quindi andiamo con una canzone. vuole così. Stai ascoltando Radio Flow. E insomma, mentre Liam si faceva le sue belle vacanze sul lago di Como, noi abbiamo ascoltato i Kasabian, che alla fin fine hanno sostituito anche loro, in un certo senso, gli Oasis. Erano già in programma per il concerto, ma perlomeno diciamo che chi doveva andare al concerto si è potuto consolare comunque con un po' di buona musica. Allora, adesso, problemi tecnici permettendo, parliamo un po' di nuovi album in arrivo. Innanzitutto, un album che dovrebbe uscire all'inizio del nuovo anno è quello dei Management, o MGMT, che sono a registrare niente meno che a Malibu. Dunque, cos'altro dire? L'album dovrebbe essere prodotto da Peter Kember, che sarebbe il fondatore degli Spaceman 3. Insomma, si parla di, come sempre quando deve uscire un album nuovo, si cercano delle influenze un po' ovunque. Quindi qua si parla di elettronica, di soul, di psichedelia. Insomma, noi andiamo a sentirci comunque un vecchio pezzo dei Management che ci è piaciuto molto. Un attimo che lo troviamo e lo facciamo partire. Ecco a voi i Management. Stai ascoltando Radio Flow. E come io sono padrone di tutte le radio, non c'è nessuno che fa sentire queste canzoni. Radio Flo, libera radiofonia tra amici. E siamo di nuovo in studio, questo studio, vabbè, chiamiamolo studio. Dunque, questo era il nuovissimo pezzo degli Editors, si chiama Papillon. Dunque, come avete sentito, era abbastanza diverso da quello che di solito ci hanno abituato ad ascoltare gli Editors. Il disco nuovo è in arrivo, pare che sarà sulla falsa riga di quello che abbiamo appena ascoltato, un disco molto elettronico. Ci ha lavorato sopra Flood, che ricordiamo è stato anche con gli due, con gli Smashing Pumpkins, con i Killers. Quindi speriamo che gli Editors, che finora non ci hanno tradito, non facciano una cagata proprio al terzo disco. Insomma, noi andiamo avanti, ascoltiamo, non ascoltiamo nuova musica, ma parliamo di altra nuova musica in arrivo. Perché tra pochi giorni, no, non tra pochi giorni, ma tra un mese, il 10 ottobre, dovrebbe uscire invece un nuovo EP dei Massive Attack. Un EP con due pezzi nuovi, al quale ha partecipato, stando a quanto rilasciato, a quanto risulta scritto da Pitchfork. Quando si nomina Pitchfork bisogna fare oh, perché è un testo sacro, ovviamente stiamo prendendo per culo. Dunque, insomma, stando a quanto appare su Pitchfork, ci dovrebbe essere assieme a Massive Attack niente di meno che il cantante dei TV on the Radio, il cui nome è impronunciabile, Tunde Adebimpe, insomma, su un paio di canzoni. Noi non abbiamo in questo caso la canzone nuova dei Massive Attack, quindi vi facciamo ascoltare una canzone vecchia, mi dispiace, purtroppo la pirateria non arriva ancora dappertutto. Keep the girl in the distance, lose very easy. The sunshine in my life, the way I did is shady. Skip hit data to get the petty matter. Blue lines are the reason why the table had to shatter. To the sound of silence, surrounded by the mass. The faces on the paper, not the strangers that have passed. The ones I'm looking back to see if they are looking back at me. Are you predatory? Do you fear me? Yeah, while I'm doing this, I know the place I really wanna go's the one I love that never gets near me. It's a beautiful day, but it seems as such. Thoughts, words I treat too much. Even if I told you, you still would not know me. Tricky never does, Adrian mostly gets lonely. How we live in this existence, just being English upbringing, background Caribbean. It's the way that we deal with it, sharing a soliloquy. Pick up the broken thread for flexibility. Mickey, I'm a 3DZ, son of Wayne Glazy. No sunshine in my life because the way I deal is hazy. Live from day to day because I'm on my toes. Rock a temporism, I remain in comatose. Love me too, I'd lie not true. profits are minimal, almost at zero. Excommunicated from the brotherhood of man, the one that only has a puzzled anagram. Del pensiero del suo nome, del suo ineffabile, effabile, effineffabile, profondo e inscrutabile, unico nome. La memoria delle radio libere, cioè se è successo negli anni 70, è possibile che succeda ancora. Comunque è divertentissimo, potremmo andare avanti tipo per altri 20 minuti. Siamo da Lecce, in questi giorni. Mercoledì e venerdì sono un strumento come quello della radio, in una stanza, in due stanze, in qualsiasi paese d'Italia. Faccio ripartire che non forno, andiamo con la bella. Come sapete ci sono diverse versioni di Snowflow e questa è quella buona, quella del venerdì. È possibile che una cosa del genere succeda ancora. Radio Flow, la radio di ieri, la tecnologia di domani. Si torna in studio. Questi erano i Nirvana. Questi erano gli Arctic Monkeys, anche se sembravano i Nirvana. Vabbè, consideriamola come una specie di cover. Insomma, era un pezzo dal Potion Approaching, pezzo dal nuovo disco Humbug. Disco che sta dividendo la critica, infatti c'è a chi piace, c'è a chi non piace. Senza dubbio è molto diverso dai dischi precedenti. A me piace, non me ne fregherà un emerito, ma insomma non piacevano i dischi di prima, questo mi piace di più. Sono cresciuti gli Arctic Monkeys, anche giusto che sia così. Ma andiamo avanti, siamo quasi alla fine, gli ultimi 10 minuti, inauguriamo una collaborazione con un sito per il quale già io scrivo, con Indie for Bunnies. Dunque, andiamo a presentare, di volta in volta andremo a presentare quello che è per Indie for Bunnies l'album della settimana. Questa settimana si parla, ricordiamo innanzitutto l'indirizzo www.indieforbunnies.com. Indie for Bunnies, dai, tutti siete anglofili alla fine, quindi insomma. Dunque, il disco di questa settimana è tale Joachim con Milky Ways. Devo dire la verità, non lo conoscevo assolutamente prima di aver letto questa recensione fatta da Accento Svedese, dall'amico Federico Accento Svedese, che salutiamo. Insomma, leggiamo un po' quello che dice. In poche parole, parla di una recensione abbastanza curiosa. Si parla di colonne sonore per immaginare i film porno da guardare sotto effetto di sostanze non propriamente legali. Cavalcate intrise di fazz, suoni dance da lacrime agli occhi. Il disco che avrebbero fatto i Sonic Youth se non si fossero bolliti i neuroni durante la Summer of Love del 1988. Insomma, non si capisce un cazzo da quello che sto dicendo, quindi vediamo un po' se ascoltiamo qualcosa per farci un attimo l'idea della musica di Joachim. Ricordiamo, Joachim. Un attimo, perché abbiamo altri problemi tecnici. Joachim, Milky Ways, andiamo ad ascoltarci Add Me. Dancing with the man, that was only a man's voice, and the girl with toys. Insomma, qui si continuano a mangiare i rustici, interessante questo Joachim, ma qui ci si era dimenticati soprattutto, tra un rustico e un bicchiere di Coca-Cola, della notizia più importante, quella che in fondo stavate aspettando tutti, perché per Natale 2009 pare che uscirà il CD del Papa, di Joseph Ratzinger. Il suo nome d'arte lo conosciamo meglio come Benedetto XVI. Dunque, tutti aspettiamo con ansia questo disco, chi lo regalerà alla ragazza sotto l'albero, chi lo regalerà ai genitori, chi lo regalerà al suo peggior nemico, io probabilmente lo regalerò a lui. Insomma, speriamo che il Papa non si sciolga, no, non si può sciogliere perché non è un gruppo. Speriamo, come attendiamo con ansia il suo tour in tutti i palazzetti del mondo, e intanto gli dedichiamo una canzone dal terzo orecchio. Andiamo con questa simpatica canzoncina dedicata a Benedetto XVI. E questi erano i Don Turbolento, gli italiani Don Turbolento, con la cover di I Wanna Be Your Dog di Iggy Pop, degli Stooges, che abbiamo dedicato al nostro simpatico Ratzinger, in attesa del suo CD. Ricordiamo, la notizia veniva dal blog di Emiliano Colasanti, www.stereogram.manstyle.it, dove tra l'altro potete vedere in anteprima le bozze di copertina. Insomma, vi consiglio di fare un salto, perché sono delle copertine che vale la pena vedere. Torniamo a parlare di notizie vere. Pare infatti che Thom Yorke sia lì per far uscire, dopo aver lasciato uscire qua A Nome dei Radiohead, due singoli scaricabili gratuitamente negli ultimi giorni, farà uscire invece un vinile contenente il 22 settembre contenente due sue canzoni, se non sbaglio dovrebbero essere delle canzoni inedite a suo nome, non dovrebbero essere, da quello che leggo, le canzoni uscite A Nome Radiohead, almeno così riporta il web magazine Fact Magazine. Anche in questo caso non abbiamo le canzoni nuove, ovviamente, ma andiamo ad ascoltarci invece un pezzo che i Radiohead hanno fatto uscire proprio in Stai ascoltando questo Radio Flow. E nel frattempo chiediamo a Tonio di manifestarsi. Si cerca Tonio disperatamente, perché deve fare il programma dopo di me. Tonio! Rieccoci studio per l'ultima volta, è il momento dei saluti. Subito dopo ci sarà Tonio e intanto noi salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri pochi ascoltatori. Un saluto da Mr. Soft, l'ospite misterioso presente in studio, vuole dire qualcosa? Un saluto? No, ti devi avvicinare. Ciao. Il minimo, vieni, scrocchi i rustici, scrocchi la Coca-Cola, non puoi nemmeno salutare. Dunque, il momento dei saluti, ci sentiamo nuovamente la prossima settimana, forse se non sarò licenziato. No, non mi possono licenziare perché non ho un contratto, non guadagno nulla, quindi nulla. Allora, un saluto dal terzo orecchio e alla prossima settimana. Ciao ciao, passiamo la linea a Tonio. E tanto che aspettavo un'occasione così. Stai ascoltando Radio Flow.